Allora, eccoci di nuovo in diretta. Dunque, siamo collegati telefonicamente con Aldo Milani del sindacato Sicobas. Sì. Buongiorno, ciao Aldo. Buongiorno, ciao. Allora, dunque, lunedì c'è stato questo incontro a cui hanno partecipato, insomma, anche gli esponenti degli altri sindacati, dei confederali, con l'intermediazione del comune, la presenza del sindaco. Insomma, alla fine si è trovata una quadra, diciamo, nel senso che quantomeno il minimo ottenibile lo si è ottenuto, e cioè il reintegro dei 9 lavoratori di IKEA che erano stati licenziati, espulsi, insomma, in seguito per rappresaglia, si può ben dire, insomma, in seguito all'inizio della lotta e degli scioperi al polo logistico di Piacenza. È così, Aldo? Non è proprio così, ecco, nel senso che purtroppo i compagni con cui la nostra delegazione la sera che avevo detto di stendere un po' la base del nostro comunicato hanno un po' troppo gioito prima del risultato, nel senso che le cose sono ancora tutte condizionate a una serie di problematiche, e non è in caso che il giorno dopo loro abbiano giocato un po' su queste situazioni. Prima di tutto è sbagliato dire che avevamo già avuto un risultato positivo, perché è vero che la trattativa è andata in quella maniera lì, nel senso che avevamo difficoltà a dover gestire sia le istituzioni che questi qui, addirittura i sindacati confederali, quando gli ho chiesto che se loro confermavano tutta la CGIL che li spostavano all'esterno, sono stati zitti, è stato un silenzio tombale. Però voglio dire, fondamentalmente le cose in ballo sono ancora: uno, se va in porto la trattativa sul piano individuale, perché i lavoratori gli avevano promesso 30.000 euro, poi alla fin fine erano 25.000, e quelli che dovevano eventualmente accettare di non entrare in azienda. Però il giorno dopo è chiaro che se, diciamo, passa la posizione che tanto ormai si è risolta la questione, questi non a caso gli hanno offerto 10.000 euro. A me va bene sinceramente, perché noi siamo per far entrare i lavoratori in azienda tutti e 9, però la trattativa si è sviluppata, cioè la discussione si è sviluppata anche intorno al fatto che 4 di loro avevano scelto di poter eventualmente accettare una parte economica e uscire dall'azienda. Fondamentalmente il primo elemento. Il secondo elemento, la cosa che è condizionante, che nessuno lo dice nei comunicati vari e niente, e loro e noi siamo dei coglioni se facciamo un comunicato del genere, dire che tutti e 9 sono entrati, perché uno è quello che hanno già licenziato, e che siamo, cioè io ho posto il problema che se non entra il licenziato non accettiamo queste cose che ci vogliono mettere in piedi, perché loro sostengono una cosa. Mentre uno di quelli che è fuori, che è stato preso perché spacciava eroina, l'hanno teoricamente integrato, gli hanno detto non vai più a lavorare all'IKEA, ma intanto che hai il processo vai a lavorare, diciamo, in un'altra parte. Invece il nostro, che ha fatto soltanto il picchietto, che secondo loro ha strattonato una persona, no, quello non ha diritto eventualmente ad avere prima il processo e poi dopo comunque il licenziamento non può passare, non hai fatto qualcosa in azienda. Il problema è ancora, che non è chiaro se c'è azienda o no, se sta entrando tutti e 9, chiaramente siamo ancora per avere prima avanti, ancora i picchietti. Quindi direi che è stato esagerato già subito dire che avevamo vinto, eccetera eccetera. Sarei stato un po' più sulle mie, e d'altro lato è anche un modo per smobilitare eventualmente il lavoratore fuori dall'IKEA, no? Perché fin quando non abbiamo risultato in mano non dobbiamo lasciarci andare a questi tipi di euforia, ecco. È impropria, ecco, diciamo, il comunicato rispetto a quella che è ancora la situazione, perché siamo, cioè, anche all'inizio, anche nelle trattative precedenti, avevamo sempre a parole su una serie di situazioni, poi si verificava che la settimana dopo ce la mettevano in quel posto. Verifichiamo prima che entri, ma poi dopo eventualmente facciamo dei comunicati anche in quel senso lì, ecco. Beh, insomma, le... Ma che è girata, vero, su tutti i giornali da sole 24 ore dalla... E in effetti, cioè, è così. Sotto certi punti di vista magari si può anche favorire e dire che le istituzioni hanno detto, le istituzioni in realtà non è che hanno detto così, cioè le istituzioni non hanno ancora deciso che sia così, tanto è vero che si sono prese una settimana di tempo perché anche loro volevano arrivare probabilmente a decidere in una certa maniera al posto di quello che noi abbiamo chiesto, no? Quindi certo, prima aspettavamo certo. risultati e poi dopo eventualmente potevamo anche farne prendere una posizione del genere. Come se è sbagliato, ecco, quel momento. Non è che cambia molto la situazione, però va bene. Beh, certamente, insomma, è da apprezzare il fatto che ci sia anche questa, diciamo, autocritica rispetto a no, l'aver accolto con il comunicato che circola, gira, insomma, in diversi siti, forse con troppa enfasi, il risultato dell'incontro di lunedì. Ma tant'è, insomma, del fatto sì, che... il risultato è positivo perché chiaramente la cosa essenziale che di quella la riunione è che quando tu parli per un'ora e loro parlano per 5 o 10 minuti e non riescono neanche a specificare una parola e le istituzioni sono in difficoltà a gestire questa cosa e quello dell'IKEA non vede l'ora che si chiuda la riunione per dire io ho già accettato perché voi mi avete ridotto, diciamo, le condizioni economiche. E poi personalmente quando avevo parlato prima i giorni precedenti, questo qui quando avevo tirato via il picchetto dei giorni precedenti, questo mi aveva detto in pratica per dire al posto di lavoro come direttore. È chiaro che di fronte a questa cosa è risultato oggettivo che le lotte hanno inciso e quindi questi si tiravano indietro. Da dire che abbiamo, perché poi nelle fasi finali c'è una virgola in più o virgola in meno, ma non è una virgola qui si lasciano fuori un lavoratore, no? Perché ha fatto il picchetto. Direi proprio no, direi proprio che non può essere. Non è che abbiamo vinto. Se è così, certo, capito? No, assolutamente. Poi peraltro, insomma, è quasi una consuetudine quella di arrivare, insomma, a degli accordi in sede di discussione per poi, insomma, smentirli concretamente nelle fasi operative, insomma, per cui c'è sempre da fidarsi abbastanza poco, a maggior ragione quando ancora, insomma, effettivamente non tutto è stato pienamente risolto. A maggior ragione il fatto che hanno tenuto già 2 mesi e 10 giorni questa posizione, per cui sai, siamo di fronte anche a un avversario che bisogna prima un momentino essere un po' più precisi ed essere sicuri di e prendere col beneficio di inventario anche tutte le allusioni che vengono fuori in una trattativa del genere. Ti volevo anche poi chiedere, Aldo, il fatto che questa per voi peraltro era immagino anche da considerare come un risultato minimo, nel senso che poi c'è tutta una piattaforma a partire dalla quale si vorrebbe tentare di migliorare in toto le condizioni degli facchini, insomma, dei lavoratori dei poli logistici IKEA e secondo, insomma, parametri ben diversi da quelli che sono in piedi oggi, no? Sì, poi l'altro, però sai, su questo sono meno preoccupato perché il fatto che loro hanno propagandato di tutto per dire che questi non rientravano, quando entrano già la cosa cambia già del tutto. Poi sono più fiducioso anche dal fatto che se non rientrava questa trattativa lunedì, noi in una sola giornata domenica, andando anche casa per casa a cercare i lavoratori, abbiamo raccolto quasi 160-68 firme di sostegno ai lavoratori trasso per presentare una richiesta al Ministero dei Settori Produttivi di Roma perché intervenisse su questa questione, perché tramite l'avvocato avevamo questa intratura. È chiaro che se c'è un allargamento che va oltre quelle 40-50 persone che più partecipano ai picchetti, ma che di fronte a una persona che ha paura che se ti firmi e vieni licenziato e firmano comunque, sai, vuol dire che comunque non si è, diciamo, placata o si è estinto il rapporto tra quelli lì e il resto dell'azienda esterno, no? Certamente ci sono delle paure e questo vuol dire che se rientrano è il dato oggettivo, cioè quando tu dici questi qui sono i terroristi, questi non li facciamo entrare, questi creano dei problemi, eccetera, eccetera, poi entrano, è anche la dimostrazione che se ti organizzi e Chiarotti, se sei anche di più, può ottenere anche dei risultati diversi, per cui poi su quel terreno lì si tratta di raccogliere il risultato dall'entrata per poter cominciare a rafforzarsi e poi dopo eventualmente andare avanti poi sulle questioni effettive su cui noi ci siamo posti i problemi all'interno, come dicevi tu. Assolutamente. Senti, ecco, c'è invece poi un aspetto ancora più generale, nel senso che vabbè, la lotta dell'IKEA è riuscita, a partire dal protagonismo dei lavoratori immigrati, a diciamo stringere anche rapporti e alleanze sociali più vaste, articolate. Sì. Soprattutto c'è stato un grande attivismo da parte degli studenti, non solo lì a Piacenza, sì, ma anche in altre città, ad esempio a Bologna. Sì. La cosa però... Ecco, sì, appunto, ma la cosa che lascia ben sperare è anche il fatto che questo tipo di vertenza sembra assolutamente riproducibile anche in altri contesti, cioè ci sono altre vertenze che stanno scegliendo lo stesso modus operandi. Qui da noi, ad esempio, in questi giorni abbiamo parlato lungamente dei corrieri postali della cooperativa Orbea, ma insomma... Io sono qui adesso, ecco. Sono qui a Roma, sono qui a fare una riunione adesso perché andiamo a fare la trattativa su questa vicenda. Per cui insomma sembra che si stia tentando una strada. Loro adesso andiamo alla trattativa alle 3 sulla faccenda, arrivare a un accordo anche qui, per cui poi dopo è chiaro si estende molto di più se la situazione si ottiene il risultato anche qui. Ho capito. Va bene. Va bene, perfetto. Allora vorrà dire che anche su Orbea ci sentiremo nei prossimi giorni, vediamo un po' cosa succede. Va bene, grazie, ciao. Aldo, ciao. Thank you.